Buonasera a tutti gli ascoltatori di Fuori Onda Radio e di Radio Ciroma. Questa è Banda Armata. Vai con la sigla. Razzinga! Razzinga! Trema il regno delle tenebre del male, dalla fortezza di San Pietro arriva, coi pugni teologici. Razzinga! Razzinga! Si scaglia dal sagrato contro il male, se sei il nemico prega è già finita, la chiesa batte i denti, c'è Razzinga, Razzinga, croci rotanti, Razzinga, Pater Noster, Razzinga, ostia di fuoco, ha la mente di Lutero ma tutto il resto va da sé. Dagli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te, Razzinga, Razzinga, ha la mente di Lutero ma tutto il resto fa da sé, non conosce la paura di età italiane, che cos'è, se hai bisogno puoi invocarlo con la Bibbia apparirà, Razzinga. È finita la nostra amatissima sigla Razzinga in onore di Papa Benedetto XVI, a cui rivolgiamo una sentita preghiera. La sigla è di Roberta Sagliardi e di Claudio Agnessi, una sigla che a noi piace particolarmente per l'ironia, ci mette sempre allegria. Dunque, ricominciamo a trasmettere dall'aula P2 occupata. Questa è Banda Armata, stiamo trasmettendo sulle frequenze web, sulle ideali frequenze web di Fuori Onda Radio, e con molto piacere che vi annunciamo che da questa puntata in poi andremo anche su Radio Ciroma, la radio libera storica della città di Cosenza, da sempre vicina ai movimenti culturali e di emancipazione di questa città. Andremo su Radio Ciroma in particolare dalle 16:30 tutti i giovedì, praticamente la puntata che martedì va su Fuori Onda Radio sul web verrà ritrasmessa sulle frequenze di Radio Ciroma 105,7 FM ogni giovedì alle 4:30. Dunque, oggi abbiamo un programma piuttosto ampio. Siamo stanchi, veniamo da due giorni di duro lavoro per la preparazione della seconda, ma che di fatto è la prima assemblea della Facoltà di Ingegneria di Cosenza, un'assemblea che è cominciata oggi alle 3:30 in Aula P2. Ma eravamo così tanti che abbiamo dovuto cambiare aula. Siamo scesi nella consolidata A, sempre il cubo 40. Eravamo credo più o meno 500 studenti a parlare dello stato dell'università italiana e della nostra università oggi, quindi a parlare di tagli, a parlare di L. Gelmini, un'assemblea che oltre ad essere stata partecipata c'erano comunque anche docenti, il preside e i ricercatori, ovviamente. Un'assemblea che oltre ad essere stata partecipata è stata anche piuttosto unanime nei contenuti, quantomeno in linea. I contenuti, soprattutto gli studenti, sono stati pressappoco coincidenti. Si è espressa l'esigenza di fare qualcosa, di mobilitarsi anche senza paura, a partire dalla nostra facoltà e dalla nostra università. Dopo parleremo anche un po' di quanto ha deliberato questa assemblea, che si è conclusa soltanto un'ora fa. E non è facile, non è frequente vedere un'aula come l'aula A, che fa circa 300 posti, piena in ogni ordine di posto, con studenti seduti sulle scale, che risulta piena dall'inizio alla fine. Dalle 3:30 gli studenti sono stati qui a parlare, a discutere del da farsi, e sono rimasti fino alle 8:30, qualcuno è rimasto anche dopo l'assemblea a chiacchierare un po', a discutere insieme agli altri insomma su come muoversi da domani in poi. In programma ci sono anche tanti altri argomenti. Non si può non parlare, trasmettendolo, ricordiamo, dall'aula P2 occupata all'Università della Calabria, la facoltà di ingegneria, non si può non parlare della bomba. E come forse non tutti sapranno, ma ieri all'Università della Calabria abbiamo avuto un allarme bomba. Poi parleremo dell'incontro che si svolgerà a Crotone il 30 di questo mese, della rete di difesa del territorio. Parleremo dell'iniziativa degli appunti contro informazione che stiamo organizzando in aula P2 occupata, e faremo anche un piccolo intervento su una modesta nostra inchiesta fatta sui rappresentanti. Ora andiamo con il primo spazio musicale. È uno spazio che, insomma, non può che lasciarci, come dire, non può che farci piacere, dal momento che in questo momento persino Lanza ricorda Rino Gaetano, e a noi non ci piace ricordarlo per Il cielo è sempre più blu, oppure per Gianna, per Berta Filava, per quanto sono canzoni belle che molto spesso balliamo anche nel momento in cui ci divertiamo, nel momento in cui ci rilassiamo. Ci piace ricordarlo per le canzoni, quelle un po' più polemiche, un po' più di denuncia, seppure sempre alla Rino Gaetano. Le denunce di Rino Gaetano, per esempio con Fabbricando Case, erano sempre ironiche, quasi mai dirette, per quanto molto forti. Allora, stasera, il pezzo di stasera che abbiamo scelto per stasera è Agapito Malteni, Il Ferroviere, che parla un po' di una è un po' la risposta alla locomotiva di Guccini. Agapito Malteni era un ferroviere, viveva a Manfredonia, giù nel tavoliere. Buona educazione, di spirito cristiano, è un locomotore sottomano. Di buona famiglia, giovane sposato, negli occhi si leggeva molto complessato. Faceva quel mestiere, forse per l'amore, di viaggiare sul locomotore. Seppure complessato, il cuore gli piangeva quando la sua gente andarsene vedeva. Perché la gente scappa, ancora non capiva, dall'alto della sua locomotiva. La gente che abbandona spesso il suo paesello, lasciando la sua falce in cambio di un martello. E gente che ricorda nel suo cuore errante il misero guadagno del bracciante. Sera partì da Torre a Mare, doveva andare a Roma e dopo ritornare. Pensò di non partire oppure senza fretta di lasciare il treno a Barletta. Svelò il suo grande piano all'altro macchinista, buono come lui ma meno utopista. Parlò delle città, soddisfatto del proprio guadagno. E con le parole cercava di fermarlo, ma fu una mano ad addormentarlo. Agapito Malteni il ferroviere, questo è Rino Gaetano. Dunque, le cose di cui parlate sono tante, quindi non ci soffermeremo molto sul pezzo. Non possiamo che partire dall'assemblea di facoltà. Come detto, un'assemblea di facoltà piena, molto partecipata, in cui gli studenti hanno discusso, i contenuti sono stati tanti. Gli studenti del collettivo in particolare hanno prima illustrato un po' quello che è il panorama legislativo dell'università oggi, ovvero attraverso i tagli della legge finanziaria 133. E quali sono i progetti futuri, ovvero il DDL 1905, il cosiddetto DDL Gelmini, che è diviso, insomma, in questo momento è stato rimandato per una questione di copertura, ma in realtà sappiamo benissimo che è stato rimandato per i delicati equilibri di governo, e che il ministro auspica si possa discutere già prima della fine dell'anno. In particolare, insomma, i relatori ci hanno tenuto a sottolineare due cose. La prima cosa è che già prima della legge 133, rispetto agli altri paesi OCSE, hanno mostrato alcuni dati OCSE, l'università italiana era già sottofinanziata, ovvero quando si parla di sprechi, quando si parla di cattiva gestione, cose che sicuramente possono essere condivisibili e che anche noi studenti condividiamo, seppure non è una cosa che possiamo pagare noi, sia ben chiaro. Comunque si deve partire dal fatto che l'università italiana prima della legge 133 è comunque un'università sottofinanziata rispetto ad altri paesi. La seconda cosa è direttamente correlata alla prima, è che quindi non si tratta di un problema di questo governo, è un problema strutturale, un problema di apparato. Sono stati, insomma, i governi degli ultimi probabilmente 20, addirittura il preside Veltri diceva gli ultimi 30-40 anni, a danneggiare l'università. Per cui gli interventi che si sono susseguiti hanno evidenziato prima la situazione di profondo disagio, la situazione critica che esce fuori dai progetti legislativi e finanziari. Dopodiché si è passati alle proposte. E anche in questo caso gli studenti sono stati piuttosto propositivi, anche alcuni professori, in particolare il professor Nigro del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica si è espresso facendo alcune proposte rivolte ai propri colleghi. Molte di queste proposte sono state approvate e saranno già operative probabilmente da domani. Ma tornando un po' alla discussione, prima di passare, insomma, a quanto è stato deliberato, fra le altre discussioni c'è stata ovviamente, come tutte le assemblee, come giusto che sia, gli interventi talvolta divagano, talvolta allargano le vedute, talvolta le stringono. Si è discusso anche delle sessioni di esami del 509, in particolare con un intervento che mirava, come dire, a abbassare le pretese e le rivendicazioni degli studenti, è stato detto ed è stato ribadito che la battaglia degli studenti, che stanno sostenendo non solo il collettivo Pido Occupata, ma anche altri collettivi e comunque anche singoli studenti si stanno prendendo la briga di raccogliere firme per sé. Noi abbiamo fatto una raccolta firme che ha raggiunto già ormai 600 studenti, considerati in un'università praticamente deserta fino a ieri, e che rivendica una cosa semplice, ovvero il proprio diritto a sostenere gli esami con cui abbiamo iniziato a studiare, gli esami che corrispondono ai nostri ritmi di studio e che sono progettati per il nostro numero d'esame e la nostra propedeutica. Questa cosa qui è una cosa che è stata ribadita, che verrà discussa e crediamo noi che debba essere approvata nel consiglio di facoltà di dopodomani, che si terrà in DS3 alle 15.30. I contenuti della discussione sul DDL Gelmini e sui tagli sono stati chiaramente piuttosto ampi. In particolare ci ha colpito la visione di alcuni docenti che hanno cercato di descrivere comunque la situazione dell'università, del nostro Ateneo, e l'hanno descritta in maniera inaspettatamente sincera, cioè come una situazione nera. La nostra facoltà in particolare, a detta del preside, ha visto un abbassamento del proprio budget del circa del 400%. Noi avevamo scritto nella nostra slide che le facoltà hanno un budget dimezzato, in realtà il preside ci ha corretto peggiorando quella che era la nostra visione. Questo che cosa significa? Ovviamente il preside ha dei doveri istituzionali, per cui ha detto: io questo ciò e con questo devo mandarvi avanti. Lui lo fa nel pieno rispetto della propria figura, ripeto, istituzionale. Noi continuiamo a dire che lo fa con poco rispetto del proprio dovere politico, del proprio dovere sociale, sia di preside, sia di ordinario, sia da cittadino. Ad ogni modo, questo significa che l'anno prossimo, a fronte di una razionalizzazione pesante che abbiamo già vissuto quest'anno, ci sarà una razionalizzazione sostanzialmente selvaggia. Non vogliamo neanche immaginare quelle che saranno le risse verbali e forse anche non verbali nei consigli di facoltà quando si dovrà decidere di togliere corsi, di togliere cattedre, di togliere curricula, e chiaramente, come sempre, a pagarne le spese saranno gli studenti. Per cui questa è un po' la situazione ancora prima che il DDL Gelmini venga approvato. Un'altra cosa su cui è normale che gli studenti, ed è giusto che gli studenti sono intervenuti, sono i cosiddetti sprechi, quelli su cui il ministro Gelmini, i suoi fiancheggiatori, i suoi sostenitori battono molto. Beh, anche in questo caso c'è da dire che una precisazione va fatta ed è stata fatta oggi all'Assemblea, ovvero che degli sprechi possono essere imputati sicuramente alla classe dirigente attuale e precedente di questa università, quindi al rettore, ai docenti ordinari in generale, ma di certo non possono essere questi i motivi con cui si abbassano le pretese degli studenti, in quanto sarebbe paradossale che per gli sprechi di chi ci ha preceduto noi dobbiamo continuare a pagare. Il ragionamento è esattamente il contrario, quello che si è cercato di fare oggi. Il ragionamento è che non vogliamo che della nostra indifferenza, perché bene o male, diciamo, qui si sta discutendo del futuro prossimo, se non del presente. A me se non concesso che tutti quelli che oggi sono all'università riescono a sostenere tutto il proprio corso di studi e a laurearsi, il messaggio che è stato chiaro oggi da parte dell'Assemblea della Facoltà di Ingegneria è che non vogliamo che la nostra indifferenza e che le nostre inadeguatezze pesino poi sullo studentato di domani. Ora cambiamo un po' genere facciamo un piccolo stacco musicale, dopodiché dopo vedremo insomma cosa ha deliberato l'assemblea in termini sia di iniziative di sensibilizzazione che di protesta. Cambiamo un po' genere, andiamo su un pezzo che si chiama Revolution Begin. Questi sono gli Arch Enemy. Questa è Banda Armata, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando su Fuori Onda Radio, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio Ciroma 105.7 FM, da cui trasmetteremo tutti i giovedì dalle 4:30 in poi. Ringraziamo ancora Radio Ciroma, la storica radio libera della città di Cosenza, che ci ha permesso di utilizzare questo spazio autogestito per amplificare quella che è la nostra voce e le nostre posizioni, le nostre lotte, le nostre piccole o grandi battaglie che siano. Concludiamo il discorso sull'assemblea di facoltà di oggi. Beh, alla fine si è anche presa una decisione, anzi si è presa più di una decisione. L'invito del professor Nigro e i propri colleghi di fare per esempio delle lauree in notturne e compagnia bella, vedremo se sarà accolto. Poi probabilmente il consiglio di facoltà di giovedì sarà il primo banco di prova da questo punto di vista, consiglio di facoltà dove ricordo che noi andremo a rivendicare le sezioni d'esame del 509. Per quanto riguarda gli studenti, è stata unanime la volontà di cominciare a fare qualcosa sia per informare che per farsi sentire, e le decisioni prese sono state innanzitutto la stesura di un documento forte, di un documento feroce che descrive, che non fa altro che riportare tutte le cose dette oggi, chiaramente strutturate in un documento che sarà a firma della facoltà, dell'Assemblea di Facoltà di Ingegneria. E questo documento sarà poi caricato ovviamente sui siti di movimento, ma anche sul sito della facoltà stessa, sul sito istituzionale della facoltà stessa, con la richiesta di farlo girare anche per gli altri siti istituzionali, per gli altri consigli di facoltà. Vogliamo insomma che, se fino adesso non sono state prese, quantomeno non sono venute al nostro orecchio delle posizioni forti da parte delle facoltà, vogliamo insomma rompere questo silenzio e cominciare a far capire che qui ci sono degli studenti e anche, seppur in minima parte, dei docenti che non hanno intenzione di aspettare in silenzio la discussione della finanziaria e poi la ridiscussione del DDL 1905, né tantomeno disposti ad accettare i tagli previsti dal 2008 dalla legge 133. Quindi la prima decisione è stata questo documento che andremo a strutturare e poi ovviamente a diffondere, dove, ripeto, non ci sarà altro che un sunto dei contenuti ampiamente condivisi nella discussione di oggi. La seconda decisione è una decisione che invece mira a strutturare un'attività che parte dalla nostra facoltà, un'attività di sensibilizzazione e di protesta. Gli studenti che hanno avuto l'intenzione di unirsi alla protesta contro i tagli e contro la legge 133 si sono costituiti in un coordinamento, il coordinamento degli studenti di ingegneria, che vedrà nei prossimi giorni già l'inizio dei propri lavori. Ci siamo detti che abbiamo bisogno di rimanere in contatto, di non uscire dall'assemblea solo con delle belle parole, per cui sono già più di 50 gli studenti, oltre ovviamente ai ragazzi del collettivo, sono più di 50 gli studenti che hanno deciso di unirsi a questa lotta, che hanno lasciato i propri contatti, che hanno chiesto di essere contattati per fare delle cose, per discutere, per lottare e per sensibilizzare. Sappiamo che molti studenti, dal momento che alla cattedra a fine assemblea per iscriversi a questo coordinamento c'è stata sostanzialmente una calca, sappiamo che molti studenti arriveranno sicuramente domani ad aggiungersi a questo elenco, e questo è già un grande risultato. La facoltà di ingegneria, quindi, possiamo dire di avere comunque un gruppo di studenti che si interessano da oggi, almeno da oggi, a questo tipo di problema, e che da domani cominceranno a farsi sentire. Ci faremo sentire in dei modi che abbiamo anche proposto e abbiamo provato. Cominceremo probabilmente dalla città, andremo a dire come la pensiamo, andremo a fare lezioni all'aperto a Cosenza, a Rende, per le strade, per le piazze, per i consigli comunali, anche per colmare un silenzio. Questo silenzio è stato sottolineato in particolar modo da alcuni docenti, il silenzio della stampa. Noi non ci siamo uniti al coro dei forcaioli della stampa, perché ormai siamo abituati, sono è tempo ormai che in questo paese non esiste una stampa che di fatto dà dei fatti, esiste una stampa che dà quello che deve essere dato secondo i poteri forti di questo paese e che poi rimpinza il tutto con rubriche gastronomiche, con rubriche di gossip e insomma altre cose di questo tipo. Quindi la cosa non ci ha stupito affatto. Oggi i giornalisti sono stati invitati a partecipare, quantomeno a rendicontare sulla stampa di questa assemblea. Sono venuti in pochi, anche se qualcuno è venuto, per cui noi abbiamo anche da colmare questo silenzio, questo gap che ci separa dall'opinione pubblica. Quello che è un confine fisico tra il campus di Arcavacata e l'area urbana di Vende, di Cosenza e di Montalto, dobbiamo riuscire a varcarlo non solo fisicamente ma anche idealmente. Quindi dobbiamo farci sentire nel momento in cui la stampa, la televisione non si interessa di queste problematiche. Per cui dalla settimana prossima con buona probabilità cominceremo una fitta attività di sensibilizzazione e anche di protesta. Il coordinamento chiaramente ancora non ha avuto ancora nessun tipo di riscontro, ma abbiamo ricevuto la volontà di decine di studenti di partecipare a questo tipo di attività. Per cui chiudendo più o meno, poi dopo vediamo se ci sarà un cambio di microfono, diremo magari qualche altro dettaglio dell'assemblea, altrimenti cambieremo argomento. Per adesso cambiamo completamente scenario, andiamo a Barcellona. Questo gruppo, se il mio spagnolo non mi inganna, si chiama Giulia e lo Stegliarini. E questa è la colonna sonora, fra l'altro, di un film molto carino e molto leggero, stranamente, che è Vicky Cristina Barcellona. Il pezzo si chiama appunto Barcellona. Perché tanto perdersi, tanto buscarsi, sin incontrarsi. Encierra los muros de todas partes, Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa, Barcelona, haz un calor que me deja, que brilla por dentro, con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito. Sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero. Un po' inaspettatamente Barcellona è finito, adesso diciamo per chiosare la nostra giornata prima in P2 e poi in Aula sull'assemblea, apriamo quello che ormai su banda armata, ricordiamo, trasmettiamo su Fuori Onda Radio, sul web. Per collegarsi su questa radio basta andare su pidoccupata.noblogs.org e su Radio Ciroma giovedì alle 16.30. Comunque adesso apriamo quello che ormai è il consueto angolo, no, non c'è il consueto, si è ritirato, l'angolo si è ritirato, per cui, dunque, l'assemblea quindi si è chiusa in questo modo, con molti presupposti positivi. Vedremo un po' da domani, sicuramente il collettivo adesso si impegnerà nel dare vita all'inizio quantomeno a questo coordinamento, poi speriamo che sia un coordinamento che vada avanti da sé, insomma. Noi l'abbiamo detto, anche per quanto riguarda la gestione dell'aula occupata, dello spazio occupato in Ingegneria, questa è stata una conquista del movimento studentesco di 2 anni fa, non è uno spazio a retaggio di un gruppo di persone, lo abbiamo sempre detto, noi ci gestiamo attraverso assemblee aperte a tutti quanti gli studenti, per cui tutti quanti sono invitati a partecipare a questo tipo di gestione. Da domani in poi avremo questo coordinamento, faremo anche probabilmente un gruppo su Facebook, faremo una mailing list, capiremo un attimino quali sono i mezzi migliori per contattarsi, poi chiaramente si tratterà di vederci tutti quanti e di fare delle cose. Continuando a parlare di università, non si può questa settimana non parlare della bomba. Ieri mattina sul ponte sono salite le forze dell'ordine, sono salite delle unità cinofile, probabilmente dei nuclei degli artificieri. Ieri c'è stato un piccolo problema intorno al cubo 28. A quanto pare c'è stato un allarme bomba. Che cosa è successo? È successo che per un concorso regionale qualcuno ha fatto il furbetto, qualcuno ha detto che c'era una bomba, il concorso probabilmente ha raggiunto il suo scopo in quanto il concorso regionale è saltato. Si sa come vanno queste cose in Calabria, ci stanno i raccomandati, magari c'è quello che non è riuscito a raccomandarsi, lo diciamo chiaramente, allora si è inventato di queste cose. A noi questa cosa qui non fa ridere, diciamo che fa piangere. Una cosa che però ci fa ridere è diciamo la strana gestione della sicurezza in questa università. Noi proprio l'anno scorso abbiamo avuto modo di scrivere un pezzo sul centro residenziale. Un centro residenziale che tempo fa era un vero e proprio melting pot, era un vero e proprio luogo di incontro tra persone, un luogo di aggregazione tra persone, tra culture, fra etnie, fra diversi spaccati della società, grazie anche all'Erasmus, grazie anche a delle associazioni culturali che lavorano sul centro residenziale. Fra l'altro un centro residenziale particolarmente gradevole, visto che c'è molto verde. E questa cosa qui, ripensando a oggi, è stata anche sottolineata da un professore che non si sa bene esattamente per quale motivo ha cominciato a dire che l'Università della Calabria è bellissima e che il centro residenziale è bellissimo. Beh, probabilmente manca da un bel po' il centro residenziale, dal momento che la sera, quello che prima era un sicurissimo luogo di incontro, di aggregazione, di scambio, di confronto culturale, è una sorta di caserma. Lo denunceremo anche sul giornale Fuori Corso, quella che ormai è una galera residenziale. In buona sostanza, dalle 11 in poi non si può, per esempio, una cosa banale che prima si faceva in 3, 4, 5 punti diversi del centro residenziale, suonare una chitarra. E vi assicuro che ci vogliono 5 minuti per far venire una guardia a rompere le scatole, se non si fa niente di male ma si suona una chitarra. E questo è perché l'Università della Calabria è un'università con altissimi livelli di sicurezza. Ecco, ci sembra strano che in determinati momenti e per determinate cose però questo livello di sicurezza cala d'improvviso a quello che è di fatto un blackout, come per esempio stanotte. Cioè, qualcuno ha avuto la possibilità evidentemente di mettere qualcosa di sospetto all'interno dell'aula e nonostante ci siano centinaia e centinaia di telecamere, nessuno l'ha visto, quantomeno nessuno ha potuto dire guardate che non c'è nessun allarme bomba, perché noi teniamo tutto sotto controllo. No, stamattina sono stati chiamati gli artificieri, i pompieri, la forestale, i vigili del fuoco, è stato fatto saltare un concorso regionale, evidentemente quello che magari può pensare qualche maligno, perché questo concorso regionale lo si voleva far saltare, anche magari lo si voleva far saltare dal gabbiotto della sicurezza. Noi lo diciamo sempre, il problema non sono le guardie che vengono a rompere le scatole nel momento in cui uno cerca di aggregarsi, né le guardie che non rompono le scatole nel momento in cui uno fa cose che non deve fare, il problema è chi queste guardie le dirige, chi queste guardie dà degli ordini e altri tipi di cose. Un altro caso in cui abbiamo dei fantastici blackout sono, guarda un po', le elezioni studentesche. Ora, non vogliamo andare a sottolineare il fatto che ogni tanto si candida anche qualche parente di qualche guardia, di qualche dirigente di istituto privato di vigilanza. Lasciamo stare queste cose, sono delle pure casualità. La cosa strana è che mentre in periodo normale è assolutamente vietato attaccare un volantino in A5 su una vetrata dell'università, durante le lezioni universitarie, le lezioni studentesche, si possono attaccare manifesti 70, 100, 100, 150, manifestoni di quelli elettorali, di quelli insomma grandi, peraltro neanche con lo scotch ma con la colla. Ecco, noi questa particolarità dell'università ipersorvegliata, dell'università con telecamere che controllano tutto, ricordiamo a volte che abbiamo avuto la possibilità di incappare nelle telecamere anche facendo due tiri con un pallone di plastica, se veniva subito qualcuno a dire guardate che ci hanno detto che state giocando col pallone di plastica, e invece poi per le bombe e per migliaia di manifesti non si fa nulla. Detto questo, chiudiamo questo discorso, anche perché sulle lezioni studentesche poi ci torneremo con una nostra piccola inchiesta. Passiamo a Renzulli e Pelù, questo è un vecchio pezzo di Litfiba prima del divorzio e della reunion, Fata Morgana. Yeah. sono vivo, che importa se l'ultimo o il primo, il cuore vuol battere ancora. Sento negli occhi, in fondo ai miei occhi, salire dal mare, passando dal cuore. Questa è Fata Morgana, Renzulli e Pelù, un vecchio pezzo di Litfiba che ci piace in modo particolare sia da ascoltare che da suonare, da cantare, da immaginare. Chiudiamo la lunghissima parentesi sull'università, perché prima abbiamo parlato delle fantomatiche lezioni studentesche. Beh, vogliamo consigliare a tutti gli ascoltatori di Fuori Onda Radio e di Radio Ciroma che e vogliamo consigliargli una nostra piccola inchiesta che abbiamo pubblicato sul sito sempre più occupata.noblogs.org, un'inchiesta sulla presenza dei rappresentanti in consiglio di facoltà di ingegneria. È una presenza piuttosto cospicua, diciamo, è semplificativa. Se vogliamo, la presenza è già esaustiva dei contenuti politici e di rappresentanza che questi candidati esprimono. Abbiamo dei candidati che sono riusciti a fare addirittura 50 assenze su 50, giusto per fare una breve carrellata. Il tasso minore di assenze dei nostri rappresentanti studenteschi in consiglio di facoltà dal 2007 in poi è del 41%, cioè il migliore ha fatto soltanto un 41% di assenza, ma non solo. Vi assicuro che questo 41% non è determinato da una particolare presenza, è determinato soltanto dal fatto che le elezioni studentesche sono state l'anno scorso, quindi ancora abbiamo un campione poco ampio. Dal 2007 in poi infatti abbiamo anche degli illustri, per esempio non si può non nominare Salvatore Modaffari, che oltre ad essere stato consigliere di facoltà per 2 anni con un tasso di assenza superiore all'80%, era presidente del consiglio degli studenti di questa università, sostanzialmente l'organo maggiore di rappresentanza studentesca, per cui evidentemente degno di maggiore responsabilità, ma non solo. Per capire la serietà di queste elezioni studentesche, lo studente Salvatore Modaffari è stato rielletto, per cui potrà aumentare la sua percentuale di assenza, insomma gli è stata data una seconda possibilità. Detto questo, abbiamo anche tantissime altre cose da dire. Il collettivo P2 da tempo si impegna in un progetto importante, probabilmente uno dei progetti più importanti da un punto di vista politico e sociale di questa regione, che è la rete di difesa territoriale Franconistico. La rete di difesa territoriale è appunto l'incontro di realtà, di movimenti, di associazioni, di comitati locali in difesa del territorio e del bene comune, che è nato sostanzialmente prima della manifestazione di Amantea il 24 ottobre dell'anno scorso, la grande manifestazione che ha riempito le strade di Amantea. Da allora è stata costituita questa rete, che poi è stata intitolata a Franconistico, che è un attivista del movimento, un sindacalista fra l'altro, presidente dei comitati del Basso Ionio per la bonifica, diciamo così, per la ristrutturazione della statale 106, che purtroppo ha urlato le sue ultime parole sul palco di Cannitello il 19 dicembre del 2009 in occasione di una manifestazione no ponte, per cui abbiamo deciso di intitolare questa rete a Franconistico. È una rete che racchiude, come detto, molte istanze, molte vertenze, che vuole quindi vuole far uscire dal singolo problema il comitato locale, e vuole dare una visione d'insieme, perché ci sembra corretto dare una visione d'insieme di quella che è la devastazione e quindi di quella che deve essere la risposta alla devastazione ambientale che c'è in Calabria, alla speculazione, e deve essere una visione d'insieme, una visione che non guarda solo al piccolo paese o alla singola vertenza, non guarda solo al carbone di Rossano o i veleni di Amantea, non guarda soltanto al ponte di Reggio Calabria o al rigassificatore di Gioia Tauro, all'elettrodotto del Laino Rizziconi piuttosto che alla centrale biomassa del Mercure. Vuole dare una visione d'insieme anche per riuscire a dare una risposta forte a quello che ormai è appurato come una vera e propria, un vero e proprio cancro del nostro territorio. Da allora quindi abbiamo continuato a vederci, ci siamo visti il 17 e il 18 luglio a Rossano sul lungomare, dove si è discusso chiaramente anche di carbone in quanto la vertenza carbone a Rossano è ancora aperta. Adesso ci vedremo il 30 ottobre a Crotone. Perché Crotone? Beh, innanzitutto consigliamo tutti quanti di visitare la pagina RDT che è sul nostro sito noblog.noblogs.org e al sito della rete di difesa territoriale che è piuttosto semplicemente difendiamolacalabria.org. Il 30 ci vediamo a Crotone perché ne abbiamo tutti quanti l'esigenza. Crotone è un territorio profondamente provato dalla speculazione industriale, dal raccoglimento, dall'accantonamento di rifiuti tossici e non tossici. Abbiamo avuto casi di cemento con all'interno scorie tossiche, abbiamo avuto addirittura una scuola fatta con questo tipo di materiale edile, abbiamo la famosa pertusola i cui danni si registrano non solo nel territorio di Crotone ma anche per esempio nella sibaritide, in quanto le ferriti di zinco della pertusola sono ancora attualmente accantonate nel territorio di Cassano. Per cui Crotone, abbiamo anche svariate vertenze per quanto riguarda la discarica di Giamiglione per esempio è una di quelle nell'occhio del ciclone, abbiamo il possesso del da parte di Veolia, che poi è la stessa azienda che rappresenta la parte privata dell'acqua, della gestione dell'acqua, degli acquedotti in Calabria. Insomma, abbiamo una serie di vertenze per cui tutti quanti, da Reggio Calabria, passando da Cosenza, finendo per il Pollino, anche oltre regione, abbiamo tutti quanti l'esigenza di incontrarci a Crotone per dare un segnale forte. Non ci sarà soltanto la discussione, che comunque si terrà il 30 ottobre a Crotone, lo precisiamo che si terrà in città e non in un campo nudisti, così come ci ha tenuto erroneamente e sinceramente anche ridicolmente a precisare un attivista di movimento anche attraverso i microfoni di Radio Ciroma. Per cui diamo appuntamento il 30 ottobre a Crotone. È una cosa importante questa quanto la battaglia in difesa dell'università pubblica, in quanto si tratta di beni comuni. L'università è un bene comune, è una cosa importantissima per lo sviluppo del meridione e comunque di tutto quanto il paese, così come la difesa della salute, della vivibilità, dell'ambiente, del territorio è una cosa altrettanto sacrosanta e importante. Ora facciamo un piccolo stacco musicale, veramente un piacevole stacco musicale, dall'album Wish You Were Here dei poco famosi Pink Floyd. Questa è Eva Cigar. dall'album Wish You Were Here, un album veramente splendido, Shadow of Crazy Diamond, Wish You Were Here, Evasigar. Questi erano i Pink Floyd. Dunque, siamo in chiusura, salutiamo tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando su Fuori Onda Radio all'indirizzo p2occupata.nonblogs.org. Salutiamo anche chi ci sta ascoltando su Radio Ciroma, la frequenza 105.7 FM. Abbiamo ancora comunque delle altre cose di cui parlare. Dunque, abbiamo ribadito l'importanza della partecipazione dell'evento di Crotone, del terzo forum della rete di difesa territoriale. Invitiamo quindi tutti quanti ad andare sul sito difendiamolacalabria.org oppure sulla nostra pagina sul sito pidoccupata.noblogs.org. Dicevamo, non ci sta comunque solo l'RDT, anche in termini di controinformazione, in termini di difesa ambientale. Come abbiamo detto anche nelle precedenti trasmissioni, il collettivo P2 ha organizzato una rassegna di appuntamenti di controinformazione che vedranno la partecipazione di numerosi giornalisti, attivisti, comitati locali. Una rassegna che abbiamo deciso di chiamare Diario, proprio perché pensiamo che debba essere una sorta di promemoria, una sorta di pulce che deve pulsare, punzecchiare nell'orecchio degli studenti, nell'orecchio comunque di tutti quanti i calabresi, affinché si possano sapere determinate cose che ancora una volta, purtroppo, tornando a un discorso di prima, i media non passano. Il primo appuntamento è stato rimandato dal 19 ottobre al 4 novembre, quindi si tratta della prossima settimana. Ed è un appuntamento molto importante, la presentazione di un libro inchiesta prodotto da due giornalisti calabresi, ovvero Emanuele Ayati, che è corrispondente regionale per Sky TG24, e di Peppe Valdessarro, che oltre ad essere redattore del noto quotidiano della Calabria è un collaboratore di La Repubblica e collaboratore di Riccardo Iacona, noto giornalista della RAI, autore di trasmissioni piuttosto importanti quali Presa Diretta e Viva l'Italia. L'inchiesta che Emanuele Ayati e Peppe Valdessarro hanno prodotto è un'inchiesta che ricostruisce un po' il filo del traffico di rifiuti internazionali in Calabria, tutta quella fitta rete di indizi che vanno che ormai partono da 20 anni fa. Da più di 20 anni fa con l'affondamento della nave Jolly Rosso, con le inchieste poi recenti del capitano De Grazia, la sua morte, l'inchiesta riaperta dal PM Neri, le dichiarazioni del pentito Fonti, hanno fatto un'inchiesta anche fra l'altro piuttosto serrata, confrontando rapporti dei servizi segreti, confrontando relazioni di delle forze dell'ordine. Ci sono state le commissioni parlamentari d'inchiesta, un'inchiesta piuttosto fitta e serrata che quindi sarà molto interessante sentire. Pensate che in questa inchiesta sono usciti fuori degli elementi che legano anche il traffico internazionale di rifiuti che passa attraverso terra e mare calabro, alla, ovviamente, questo purtroppo per chi si è interessato un attimino di questa problematica, all'omicidio di Ilaria Alpi in Somalia, ma persino sono usciti degli elementi che collegano alla strage di Ustica, all'aereo che venne abbattuto a Ustica. Per cui questo è il primo appuntamento di controinformazione, ce ne saranno chiaramente altri, un appuntamento a cui comunque invitiamo tutti quanti, che non sarà solo un momento di discussione e di dibattito, sarà anche un momento di socialità, in quanto voglio dire, per quanto austera da un punto di vista politico possa essere quest'aula, ed è una nostra scelta, tutti quanti, molto spesso intorno alle aule occupate, agli spazi autogestiti, c'è una sorta di etichetta, no? È un'aula dove ci va gente che non c'ha un cazzo da fare, è un'aula dove si fanno fezze, dove si fanno canne, insomma, i soliti luoghi comuni che si attribuiscono a questo tipo di luoghi. Beh, noi questo luogo comune non solo non l'abbiamo mai accettato, poi chi se ne frega alla fine, nel senso, se una persona, se gli studenti giudicano per luoghi comuni, beh, è un problema loro, ma noi comunque per una scelta politica siamo sempre stati piuttosto rigidi con noi stessi, tant'è che nell'aula occupata, forse non tutti lo sanno, ma non si fuma neanche, sto parlando di sigarette, figuriamoci altre cazzate, non è un luogo dove si fanno, non è il luogo dove si fanno feste, non è il luogo dove si fanno, insomma, la socialità che cerchiamo di produrre, l'aggregazione che cerchiamo di produrre è un'aggregazione che non va per il decervellamento di dance hall, come è comodo e proficuo anche fare all'università, ma va per esempio l'iniziativa che facciamo a seguito di Avvelenati è una cena sociale dove ogni studente che lo riterrà opportuno porterà una cosa da mangiare, dove si mangerà tutti quanti insieme, si faranno due chiacchiere, dopodiché proietteremo il film Ilaria Alpi, Il più crudele dei giorni, ovviamente collegato all'argomento di cui tratta l'inchiesta. Questo è un film molto bello, Ilaria Alpi interpretata da una splendida Francesca Mezzogiorno, che ricostruisce la morte e le motivazioni, Giovanna Mezzogiorno, mi fanno notare dalla regia, è un film che ricostruisce l'omicidio di Ilaria Alpi in Somalia, e quindi un film, oltre a essere particolarmente interessante, anche fatto bene, è molto bello. Per cui adesso abbiamo un altro spazio musicale, che è uno spazio musicale, noi nella trasmissione Banda Armata a noi piace particolarmente girovagare per generi, per stili, per anni, questo qui è un pezzo particolare prodotto, è una cover in realtà, prodotto da un duo, basso e voce, loro sono Petra Maroni e Ferruccio Spinetti, questa è Guarda che Luna. Guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son sola a ricordarmi, vorrei sentirti dire: guarda che luna, guarda che mare. Applausi per Petra Maroni e Ferruccio Spinetti, questo pezzo ci piace veramente tantissimo, già Guarda che luna di Fred Buscaglione è particolarmente bello, ma questa versione fatta con basso e voce, una voce splendida di Petra Maroni, veramente ci dà molta grinta, una voce splendida. Fra l'altro questa, mi permetto di dire che non è neanche la versione più bella, invitiamo a vedere una versione ancora più bella su YouTube, se si mette, basta si mette Guarda che luna, Magoni, Spinetti, veramente una voce fantastica, una versione che ci piace molto, non si vede, si è capito che ci piace molto, si è capito. Allora, stavamo parlando della rassegna degli appuntamenti. Giustamente mi facevano notare che troppo spesso si ricorda Ilaria Alpi, molto poco spesso si ricorda il suo cameraman rimasto ucciso nello stesso attentato in Somalia, il suo cameraman che si chiamava Miran Rovatin. Vabbè, si fa ironia sulle remosce. In ogni caso, Miran Rovatin, un nome che sinceramente troppo spesso, effettivamente è vero quello che sono stato opportunamente rimproverato, troppo spesso si ricorda soltanto Ilaria Alpi e troppo poco spesso si ricorda il suo cameraman, che fra l'altro, come vedete anche nel film, era piuttosto appassionato del lavoro che faceva e al lavoro soprattutto di Ilaria Alpi. Passiamo al secondo appuntamento, non fosse altro perché è un appuntamento sostanzialmente altrettanto imminente. Dopo il 4 novembre, quindi, Yatib Baldessarro, l'inchiesta Avvelenati, fra l'altro l'inchiesta di questa inchiesta, questo libro è disponibile in aula, è una pratica che noi non abbiamo praticamente mai fatto, ma riteniamo giusto e opportuno per autofinanziamento vendere un'inchiesta o un libro piuttosto che fare fezza, insomma, per dirla in maniera semplice. Il 12 novembre, sempre nell'aula P2, sempre diario appunti di controinformazione, ci sarà un'inchiesta, un altro appuntamento, che è l'appuntamento che abbiamo chiamato inchiesta. E quella di prima era un'inchiesta, questo appuntamento si chiama inchiesta. Di che cosa intendiamo parlare? Intendiamo parlare di una cosa che praticamente intendiamo parlare di alcune razze in estinzione. Ci stanno i koala, ci stanno i lupi della Sila, i panda, ci stanno anche i giornalisti di inchiesta. Dal momento che sono una razza in estinzione, abbiamo ritenuto opportuno fare un incontro apposito sul giornalismo di inchiesta, soprattutto in Italia, luogo dove già trovare un giornalista un giornalista davvero, diciamo, non uno che riporta semplicemente quello che gli dicono dalla redazione. Già trovare un giornalista è una cosa piuttosto difficile, figuriamoci un giornalista d'inchiesta. Un giornalista d'inchiesta, insomma, che non è quello che gli dicono vai a prendere questa notizia. E il giornalista d'inchiesta è colui che le notizie le trova, colui che laddove non arrivano persino le forze dell'ordine, gli investigatori, i servizi segreti, arriva lui. Questo è il giornalismo d'inchiesta. Un giornalista d'inchiesta non fornisce solo notizie, quindi se vogliamo profitti alla propria redazione, al proprio giornale. Un giornalista d'inchiesta ha la passione di fornire, di cercare la verità. Serve in buona sostanza il proprio paese e la propria popolazione, in quanto non fa altro che cercare di dargli delle informazioni corrette, delle informazioni importanti. Per cui abbiamo deciso di fare non potevamo fare altrimenti, non potevamo che dedicare un appuntamento di appunti di controinformazione proprio al giornalismo d'inchiesta. Ne parleremo ancora una volta con quello che ormai è uno dei nostri eroi, Peppe Baldessarro, che ringraziamo particolarmente non solo per la presenza ma anche per la disponibilità. Lui ci ha aiutato anche con alcuni contatti, con alcuni consigli. È un giornalista ormai gravita nel panorama nazionale, come detto è un collaboratore della Repubblica, cura molto spesso i pezzi di cronaca sul quotidiano, cura i pezzi regionali sulla Repubblica, è un collaboratore, ha fatto fra l'altro delle inchieste anche particolarmente importanti. Ricorderete, o forse se non lo ricordate andate a vedere un po' com'è perché è interessante, la famosa inchiesta del concorsone che fece, se non vado errato, la trasmissione di Iacon all'epoca era Viva l'Italia e fece molto scalpore, insomma, all'epoca questa inchiesta, in quanto scoperchiò l'apparato clientelare della giunta regionale di centrosinistra, con delle interviste che francamente ricordo ancora con un certo divertimento, in quanto rasentavano davvero il patetico e il ridicolo. Oltre a Peppe Baldessaro, beh, ci sarà Baffone, ci sarà Sandro Ruotolo, molti lo conoscono come l'inviato di Santoro. Lui ovviamente collabora evidentemente con la trasmissione Anno Zero. Forse non tutti sanno che 2 anni fa, nel corso della cosiddetta onda, Santoro venne qui per un'inchiesta che riguarda proprio la nostra facoltà, un'inchiesta della magistratura sul professor Nastro, un progetto di finanziamenti, diciamo così, di finanziamenti ma come dire, rubati. Il professor Nastro ancora insegna alla nostra facoltà, evidentemente è stato scagionato. Queste sono cose che riguardano la magistratura. Comunque questo fatto indusse Sandro Ruotolo a passare sul ponte Pietro Bucci e testuali parole: ero venuto per delle mattonelle e sono incappato in un'onda. All'epoca il movimento studentesco all'interno dell'università si faceva sentire, si faceva vedere, per cui la puntata di Anno Zero venne completamente spostata d'argomento. Non si parlò di inchieste, di mattonelle, si parlò di università. Ricordo fra l'altro anche un divertentissimo Barbareschi in studio. Ricordiamo che Barbareschi, sì, è proprio lui, quello di Scherzi a parte, attualmente è parlamentare alla Camera dei Deputati, ovviamente del Partito della Libertà. Adesso FLI, vabbè, prima Partito della Libertà, adesso è uno dei fantastici di Fini. Dunque, che cosa dire in più di Sandro Ruotolo, a parte quello che sapete? È un giornalista che ha lavorato per Il Manifesto nel 74, nell'80 entra nella RAI, prima nella RAI, lui è napoletano, prima è entrato nella redazione regionale della RAI Campana. Poi è corrispondente per il TG2 da Napoli, dopodiché insomma lavora per il TG3, lavora anche 3 stagioni a Mediaset con Michele Santoro che diventa il suo collaboratore fisso, per cui quando Santoro si sposta alla RAI e comincia trasmissioni alla RAI lo porta con sé, e attualmente lavorano insieme ad Anno Zero. Non ci sarà solo Sandro Ruotolo, ci sarà anche Domenico Iannacone. Domenico Iannacone probabilmente in pochi lo conoscono, in quanto è uno di quelli che lavora nell'ombra, è uno dei giornalisti più importanti delle trasmissioni di Riccardo Iacona. Ripeto, le trasmissioni di Riccardo Iacona, per fare un esempio, sono Viva l'Italia e Presa Diretta, sono alcune tra le poche trasmissioni di informazione che fanno ancora dell'inchiesta. A occhio e croce me ne vengono in mente soltanto 2, Report e Presa Diretta. Domenico Iannacone fra l'altro collabora ovviamente con Peppe Baldessarro, anche lui autore di numerose inchieste. Qualche altra notizia di Domenico Iannacone: è stato caporedattore dell'emittente televisiva Teleregione, ha ideato e condotto programmi di attualità dal 2001 al 2003, fa parte della redazione di Occupati. Sto leggendo la brochure che abbiamo preparato per questa rassegna di eventi, una brochure che potete trovare oltre che sul nostro sito anche su tutti i siti su cui ci appoggeremo. Fra l'altro intendiamo avviare comunque una serie di collaborazioni anche attraverso questa radio. Potete scaricare il programma completo con delle descrizioni più dettagliate degli eventi. Noi abbiamo fatto una campagna anche di manifesti, abbiamo tolto di sacca nostra circa 10 euro ciascuno per fare dei manifesti a colori che presto vedrete in giro per l'università e per la città. Dalla regia mi indicano che ho fatto un pippotto troppo lungo, per cui praticamente ospite fisso come artista, come cantautore di tutte le nostre puntate. Questa volta abbiamo scelto una canzone, possiamo dire, antirazzista, più o meno, sempre in chiave satirica, diciamo in chiave caparezziana, Nessuna razza. sono spazzatura che spazza razza pura. Non provo più paura, colleziono punti di sutura sul mio carnet di carne. Lucido le mie corna e metto fuoco in modo tale che neanche la forestale può far nulla. Ho un obiettivo che trastulla i miei sensi di colpa e sto più sotto di una talpa. Non gioco a fare il santo ribelle, entra nel mio vivaio, troverai soltanto nervi a fior di pelle. Nelle cinecittà dell'arte, grandi fratelli chiusi in un antro, sono pronti a uno scontro che persino Raffa avrebbe perso il self control. Basta una gaffa, mandare a fanculo anche più pronto. Mi ottiene le palle, piuttosto non esco nel greggio, rimango soltanto se faccio il pastore tedesco. Caputo arresto, detesto il processo di omologazione di musica e testo. Io salto come un popcorn su questa terra che brucia, su questa eterna sfiducia. Nessuna razza, io non sostengo nessuna razza, vostra altezza. Zero sassi contro i lapidati della piazza, sul labbro soltanto un po' d'amarezza per chi m'ha giudicato con asprezza. Nessuna razza, ma un posto a sedere in una carrozza che schizza. Fango nei sentieri di un bosco che terrorizza, che fuori dal branco conosce con fermezza ogni insicurezza. Nessuna razza, io non sostengo nessuna razza, vostra altezza. Zero sassi contro i lapidati della piazza, sul labbro soltanto un po' d'amarezza per chi m'ha giudicato con asprezza. Nessuna razza, ma un posto a sedere in una carrozza che schizza. Fango nei sentieri di un bosco che terrorizza, che fuori dal branco conosce con fermezza l'ebbrezza di una capa quando arrezza. Razze, superbe, nessuno che s'accoscia. Rozzi che sparano razzi da una catiuscia, li lascia e raddoppiano, si fanno e s'accoppano. Strano fenomeno, loro si gonfiano ma i tuoi nervi scoppiano. Sappiano che hanno tante voci, un suono, un isono. Per ogni dot che sfornano io rimango pisolo e mi isolo. Stono nel coro, volteggio sui miei di testicoli, non sulle palle di un toro. Spiazzo colui che con discorsi bui fa il duro, suppone verità che in quanto supposte se le mette nel culo. La situazione è delirante, è come la naia dove chi più aveva potere più era ignorante. Troppe cose sullo stomaco, mi viene il vomito, mi scopro cinico, mi cambio d'abito, ma non mi pettino perché mi piaccio scapigliato come Boito. Non voglio essere interrotto. Cosa ti aspetti da me? A capo di un movimento non sarei mica contento. Nessuna razza, io non sostengo nessuna razza, vostra altezza. Zero sassi contro i lapidati della piazza, sul labbro soltanto un po' d'amarezza per chi m'ha giudicato con asprezza. Nessuna razza, ma un posto a sedere in una carrozza che schizza. Fango nei sentieri di un bosco che terrorizza, che fuori dal branco conosce con fermezza ogni insicurezza. Nessuna razza, io non sostengo nessuna razza, vostra altezza. Zero sassi contro i lapidati della piazza, sul labbro soltanto un po' d'amarezza per chi m'ha giudicato con asprezza. Nessuna razza, ma un posto a sedere in una carrozza che schizza. Fango nei sentieri di un bosco che terrorizza, che fuori dal branco conosce con fermezza l'ebbrezza di una capa quando arrezza. Nessuna razza, questa è da Caparezza, l'album se non vado errato è Verità Supposte, sempre a memoria mi pare che si tratti di un album del 2003, se non conoscete Caparezza non potete non ascoltare Le dimensioni del mio caos, che è l'ultimo album 2006 dalla regia, 2008? 2006 o 2008, comunque un grande album di Caparezza. E allora, ricapitoliamo, questo è l'ultimo intervento, dopodiché chiudiamo la trasmissione con un pezzo dei Dire Straits. Ricapitoliamo, allora, l'assemblea di facoltà partecipatissima, si è dato vita a un coordinamento degli studenti che registra già circa 60 studenti, cioè più o meno 60 più i ragazzi del collettivo, quindi siamo già tanti, con cui cominceremo un'attività dalla settimana prossima, e chiaramente cominceremo a organizzarla questa settimana, ma l'attività probabilmente darà i suoi primi frutti la settimana prossima, di sensibilizzazione e di protesta all'interno della città, consigli comunali, piazze, strade, rivende di Cosenza, di Montalto, insomma dell'area urbana. È uscita fuori un'assemblea praticamente unanime nella criticità nei confronti dei tagli del DDL, anche perché il panorama descritto non tanto dagli studenti ma quanto dallo stesso preside è stato particolarmente disastroso, per cui si è capita la gravità di quello che sta accadendo. Da questo ne scaturirà un documento forte e pesante di critica nei confronti del DDL firmato Facoltà di Assemblea di Ingegneria dell'Università della Calabria, che non andrà soltanto sul nostro sito ma che invieremo a tutte le altre facoltà di ingegneria e non, perché pensiamo sia giusto dare un segnale a tutta quanta l'università. Non abbiamo nessuna paura di cominciare a mettere in discussione quanto sta accadendo dalla nostra facoltà. Non c'è stato chiaramente solo questo, ci sono anche delle iniziative da parte dei professori, questo vedremo quanto poi saranno effettivamente messe in atto. Ricordiamo che dopo domani alle 3:30 in DS3 c'è consiglio di facoltà di ingegneria, dove, perché è importante partecipare, perché lì ci giochiamo le nostre sessioni d'esami per quanto riguarda gli iscritti fuori corso dell'ordinamento 509. Molto rapidamente, l'ordinamento 509 è quello, diciamo, il vecchio ordinamento, non il vecchissimo. Ci sono state tolte le sessioni d'esame dopo che ci hanno tolto i corsi. La cosa che pretendiamo è semplicemente mantenere le sessioni d'esame secondo il nostro ritmo di studi, quindi le sessioni d'esame trimestrali, che poi sono in realtà l'unica cosa positiva dell'ordinamento trimestrale. A noi piace molto di più il trimestre, ma avendo avuto la sfortuna di incappare nell'ordinamento 509 che viene fuori dalla riforma Zecchino-Berlinguer del 99, avendo avuto questa sfortuna, insomma, vorremmo che, in virtù di un numero di esami altissimo e di un numero di propedeutica piuttosto articolato, ci si restituisse le nostre sessioni d'esame. Detto questo, non si è parlato soltanto di assemblea di facoltà, si è parlato della bomba che c'è stata ieri all'università, della fantastica università del Grande Fratello, che poi si lascia sfuggire gli attacchini durante le elezioni studentesche, si lascia sfuggire anche gli attentatori ai concorsi regionali. Abbiamo parlato anche di rappresentanti, per cui invitiamo tutti quanti, sia gli ascoltatori di Fuori Onda Radio che gli ascoltatori di Radio Ciroma, ad andare a vedere la nostra piccola inchiesta sulla presenza dei rappresentanti degli studenti nei nostri consigli di facoltà. Per adesso un'inchiesta che abbiamo limitato alla nostra facoltà, ma che presto, ve lo annuncio cari, presto si amplierà anche nelle altre facoltà. Dopodiché abbiamo parlato di territorio. La rete di difesa territoriale è un appuntamento importantissimo, si riunisce per la terza volta, questa volta a Crotone. La rete di difesa territoriale è l'insieme dei comitati, delle associazioni, delle realtà, dei movimenti in difesa del territorio e del bene comune. Per fare degli esempi, il comitato contro la centrale del Mercure, il comitato contro il ponte, il comitato contro il rigassificatore di Gioia Tauro, contro il carbone a Rossano a Stiline Ioniche, tanti, il comitato Acqua Pubblica Bruno Arcuri, che ha avuto un grande successo e che si prepara al referendum, tutte le realtà che escono dal proprio isolamento e cominciano a collaborare. Ci vediamo a Crotone, perché come sapete Crotone è una città devastata da un punto di vista territoriale dalla speculazione industriale degli anni 70, del boom industriale. Per cui è importante il 30 ottobre essere a Crotone, assolutamente importante. Noi ci saremo, ci siamo sempre impegnati in questa battaglia fin dall'inizio, fin da quando scoppiò il caso delle navi a perdere Diamantea, che poi scaturì nella grandissima manifestazione del 24 ottobre. Abbiamo parlato anche della nostra rassegna diario appunti contro informazione, qui invitiamo tutti quanti, se non sapete di che cosa si parla guardate, venite in aula, comunque andate sui siti, sul nostro sito, sui siti di appoggio, dove ci sarà, oltre ai manifesti, anche la descrizione degli eventi. Ricordiamo che il 4 novembre ci sarà la presentazione del libro Avvelenati in aula P2 occupata. Detto questo, ringraziamo ancora una volta Peppe Baldestaro per l'aiuto che ci ha dato, Radio Ciroma per la possibilità di gestire uno spazio che, oltre ad andare sul web, su Fuori Onda Radio, p2occupata.noblogs.org, va anche su Radio Ciroma tutti i giovedì in replica. Praticamente questa puntata che in diretta state sentendo martedì la potete sentire su Radio Ciroma giovedì alle 4:30, 105.7 FM. Salutiamo anche tutti quelli che ci stanno sentendo magari in macchina con l'autoradio oppure con le cuffiette in giro per Cosenza e dintorni. Chiudiamo con un pezzo, è il primo singolo della storia dei Dire Straits, un famoso e anche piuttosto bravo gruppo country rock del frontman Mark Knopfler. Questo è Down to Waterland. Noi auguriamo buonanotte, ci vediamo. Ci sentiamo presto su queste frequenze, ci vediamo presto soprattutto in giro per le piazze, per le strade, come sempre a lottare in difesa dell'università pubblica e per la difesa del territorio. Come leggo su un grande cartello qui in aula occupata, questo è soltanto l'inizio. Up comes a coaster.